prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Ancora ben trovati da Mirko Cavallin. Due argomenti in questa puntata nel mondo della Caritas. Uno è l'appuntamento che sta per arrivare nei prossimi giorni, dal 18 al 21 di aprile, all'inizio della prossima settimana, il 38esimo convegno nazionale delle Caritas diocesane. E poi faremo un breve focus sul servizio civile nazionale che vede proprio la Caritas ormai da 15 anni in prima fila. Misericordiosi come il Padre, siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Questo è il titolo del 38esimo convegno nazionale delle Caritas diocesane, in programma a Sacrofano in provincia di Roma presso la Fraterna Domus, da lunedì 18 a giovedì 21. Il tema si ricollega ovviamente e direttamente al giubileo straordinario indetto da Papa Francesco, perché la misericordia è parola chiave per indicare l'agire di Dio verso di noi e il nostro aprirci a quanti vivono nelle più disparate periferie esistenziali. Sono 220 le Caritas diocesane che si incontreranno nei prossimi giorni, a 45 anni proprio dalla nascita di Caritas Italiana, ricordiamo peraltro iniziativa di sacerdoti padovani, Monsignor Nervo per primo e poi Monsignor Benvenu Pasini. Ci sarà nella prossima settimana un sintetico bilancio dell'impegno pastorale al servizio dei poveri della Chiesa in Italia, l'orientamento per il cammino futuro alla luce anche dell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, all'anno giubilare, all'enciclica Laudato Si e alle ulteriori indicazioni che il Papa vorrà formulare. Ci sarà proprio l'udienza con il Papa giovedì 21 aprile, riservata esclusivamente ai partecipanti del convegno. Si comincia lunedì pomeriggio alle 18 con la prolusione del presidente di Caritas Italiana, il cardinale Francesco Montenegro, e poi l'intervento anche del segretario generale della CEI, Monsignor Nunzio Galantino, sull'inclusione sociale dei poveri, una priorità. Martedì mattina, dopo la crisi, ricostruire un paese solidale, con gli interventi di due professori universitari, il sociologo Mauro Magatti e l'economista Luigino Bruni. Nel pomeriggio tavoli di confronto e discernimento e testimonianza, e poi la Santa Messa con il cardinale Vallini, vicario generale per la città di Roma. Mercoledì 20 l'intervento del presidente della Caritas Internationalis, il cardinale Luis Antonio Tagle, e del direttore della Caritas Giordania, con la sua testimonianza sul Medio Oriente, Wael Suleiman. La tavola rotonda di mercoledì nel pomeriggio sarà sul tema comunicare la misericordia, con il direttore dell'agenzia Dire, Nico Perrone, il vice direttore di Rai 2, Marco Giudici, Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire, Vincenzo Morgante, direttore della TGR della Rai, Dario Quarta, giornalista autore di TV 2000, con il coordinamento del sottosegretario della CEI, Don Ivan Maffeis. Seguire l'intervento del direttore della Caritas Italiana, Don Francesco Soddu. Giovedì 21, dopo la Santa Messa presieduta dal cardinale Montenegro, appunto la partenza per Roma, a mezzogiorno l'udienza con Papa Francesco. 38esimo convegno delle Caritas diocesane a Sacrofano, Roma, da lunedì 18 a giovedì 21 di aprile. Parliamo ora del servizio civile, il servizio civile nazionale, che vede la Caritas ormai da molti anni protagonista nell'offrire una possibilità ai tanti giovani che vogliono fare questa scelta. Sentiamo la voce di Diego Cipriani di Caritas Italiana. È dal 1972 che esiste in Italia il servizio civile. Poi nel 2000 il nostro paese ha sospeso la leva obbligatoria e nel 2001 è nato il Servizio Civile Nazionale, che oggi consente ai giovani tra i 18 e i 28 anni di svolgere questa esperienza in Italia o all'estero. La Caritas Italiana si è occupata quasi da sempre del tema della pace, del servizio civile, e nel 2001 è stata tra i primi 5 enti che ha inaugurato il nuovo servizio civile, il servizio civile su base volontaria. Per la Caritas l'esperienza del servizio civile è in fondo l'esperienza di difesa delle persone più deboli, appunto quelli che vengono chiamati in genere gli ultimi della fila. L'esperienza che quindi si fa in Caritas con il servizio civile è anzitutto un'esperienza di condivisione. Il volontario, cioè, vive insieme alle situazioni di disagio che il progetto prevede. Il servizio civile è anche un'esperienza comunitaria con i poveri, con le persone che si incontrano nei propri servizi, nei propri centri operativi, ma anche con gli altri volontari, e quindi si fa veramente un'esperienza di comunità. È un'esperienza che cambia in effetti dal di dentro la persona che lo fa, ma dà anche tanto alla comunità, alle persone che stanno accanto. Questa è la cifra più importante probabilmente del servizio civile. Diego Cipriani di Caritas Italiana per una breve introduzione al servizio civile nazionale, che si può svolgere appunto ormai da una quindicina d'anni anche presso le Caritas diocesane. Allora vi invitiamo a informarvi in base al vostro territorio di ascolto. Per quanto riguarda la diocesi di Padova, ovviamente il riferimento è caritaspadova.it. Avete ascoltato? Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.